Benvenuti e benvenute a questo meeting delle culture antifasciste. Volevo innanzitutto salutare chi è arrivato oggi e risalutare chi era con cui cerchiamo di modificare, nonostante le risate. Allora ricordo anche che la presenza in questa 5 giorni Trento? No, la portavoce ufficiale di Universi Inversi, quindi. Ciao a tutti e a tutti, io sono Roberta del tavolo LGBTQ asterisco di Trento. E appunto noi quest'anno abbiamo organizzato politica. Io direi che come punti di partenza, poi non so se le compagne vogliono aggiungere qualcosa. Grazie. Io non dico nulla, ma penso, mi è solo venuto in mente al discorso che faceva lo scorso. Essere isolati. Io passerei la parola a Sara dall'altro lato dell'Italia, da Catania. Cioè il fatto che le compagne a Trento avevano quindi evidentemente rileggendo quello, evidentemente purtroppo leggono i nostri volantini, ecco tutto qua.